Le strade della comunicazione. La gestione dell'arte e del suo mercato, un nuovo scenario attraente e in forte crescita, ma che necessita di figure professionali specializzate, manager, critici, galleristi, direttori di museo, consulenti, professionisti capaci di gestire il rapporto tra arte e mercato in tutte le sue fasi. Ecco la figura professionale di cui parliamo oggi. Art Advisor per case d'asta, gallerie e fondazioni. È una figura professionale a metà strada tra il critico d'arte e il consulente finanziario. Deve valutare la qualità e il valore effettivo delle opere d'arte allo scopo di offrire consigli per effettuare buoni investimenti. Un professionista con una solida cultura storico-umanistica e competenze economiche e finanziarie. Percorso accademico. Corso di laurea magistrale in arti, patrimoni e mercati dell'Università Yulm. www.yulm.it.